La Anthony Perkins Productions presenta A Rebours. Marginali d'ogni tempo e d'ogni arte, o quasi. Buonasera a tutti quelli che sono all'ascolto. Questo è il pilota di A Rebours, un programma radio della Anthony Perkins Productions. Chi vi parla è Luca. Come avete sentito dalla sigla, A Rebours si occupa di marginali dell'arte, scrittori, poeti, musicisti, cineasti, raccontati tutti attraverso il suono, cioè attraverso gli stessi media che esploreremo, a parte ovviamente il cinema, perché non esiste il cinema alla radio, anche se qualcuno lo fa, ma solo attraverso la sua colonna sonora. A Rebours non comporrà ritratti enciclopedici, perché questo non è il suo scopo. In questo momento in cui registro non ho la benché minima idea di quando questo programma e forse anche se andrà in onda, quindi questo primo esperimento di A Rebours è come un messaggio dentro una bottiglia della non più l'etere, purtroppo, ma del magma infinito dei suoni della rete. Dove per sole strade si posa il passo illanguidito, dove una pace tenera che piove a sera il cuor non sazio e non pentito volge a un'ambigua primavera in viole lontane sopra il cielo impallidito. In un momento sono sfiorite le rose, i petali caduti, perché io non potevo dimenticare le rose. Le cercavamo insieme, abbiamo trovato delle rose. Erano le sue rose, erano le mie rose. Questo viaggio chiamavamo amore, col nostro sangue e con le nostre lacrime facevamo le rose che brillavano un momento al sole del mattino. Le abbiamo sfiorite sotto il sole, tra i rovi, le rose che non erano le nostre rose, le mie rose, le sue rose, PS e così dimenticammo le rose. Come avete capito dalla voce del grande Carmelo Bene, questa sera o quest'oggi parleremo di Dino Campana, uno dei più grandi poeti italiani del secolo XX. Dino Campana è il poeta di un solo libro, I Canti Orfici, che è stato pubblicato grazie alla sottoscrizione degli amici, che è stato pubblicato dopo che la prima redazione di questo unico libro, che si chiamava Il più lungo giorno, era stata persa da Art Deco Soft e sarà ritrovata solo nel 1973, dimenticata, in una scatola da scatti, quando il pittore fiorentino è oramai morto. Dino Campana, che dal 1918 al 1932, anno della sua beffarda morte, la passa in manicomio. Perché beffarda? Perché Dino di lì a poco sarebbe stato scarcerato, anzi liberato. Ci avevo messo un mese per farla. Faceva oro, farfalla polverosa. Perché sono spuntati i fiori del cardo? Non te ne frega niente! Non puoi dirlo, Dino. Non puoi. Guardami. E poi parlavo di una russa che si innamorava dei miei occhi di fauno. Dimmi che sei gelosa. Ma sì. Non lavori più? Non so, non ora. Non lo fare. Perché? Non lo fare mai più, hai capito? Mi fai male. Mia madre si è consumata la fronte a forza di sfregarsela. Parlami di tuo figlio. Dov'è che l'hai lasciato, puttana? Smettila! E allora parlami di tua madre. Di quella volta che si buttò dalla finestra. Che bella storia. Sibilla ha una madre. Dino ha una madre. La madre di Sibilla è pazza. Il figlio della madre di Dino è pazzo o viene tenuto per tale? Basta! Basta! Sibilla e il figlio della madre di Dino si amano. Morale, Sibilla e la pazzia vanno a nozze. Basta! Perché gridi? Basta, finiscila! Non sono più il tuo bambino. Sì, sì! La pazzia di mia madre è la pazzia di tutte le donne. La pazzia di una donna che ha davanti a sé solo il vuoto delle sue giornate. Finché gli altri non decidono di radiarla dalla vita! E allora parlami dei tuoi amanti! Quanti ne hanno toccati? Queste mani dei miei nemici! Ma io amo te! Quanti? Ma io amo te! Adesso! Ah sì? E che fine hanno fatto, eh? Sono tutti morti? No! Quasi! Chi no. Se l'è portato via la malattia? No. Chi la morte? Non è che porti male! Dino! Dino! Dino! Thank you. Fabbricare. Preferisco il rumore del mare. Che dice? Fabbricare, fare e disfare. Fare e disfare è tutto un lavorare. Ecco quello che so fare. La chimera. Non so se tra rocce il tuo pallido viso m'apparve o sorriso di lontananze ignote fusti. La china eburnea, fronte fulgente o giovine, suora della Gioconda o delle primavere spente per i tuoi mitici pallori. O regina adolescente, ma per il tuo ignoto poema di voluttà e di dolore, musica, fanciulla esangue, segnato di linea di sangue nel cerchio delle labbra sinuose, regina della melodia, ma per il vergine capo reclino, io poeta notturno, vegliai le stelle vivide nei pelaghi del cielo, io per il tuo dolce mistero, io per il tuo divenir taciturno. Non so se la fiamma pallida fu dei capelli il vivente segno del suo pallore, non so se fu un dolce vapore, dolce sul mio dolore, sorriso di un volto notturno. Guardo le bianche rocce, le mute fonti dei venti e l'immobilità dei firmamenti e i gonfi rivi che vanno piangenti e l'ombre del lavoro umano curve là sui poggi algenti e ancora per teneri cieli lontane chiare ombre correnti e ancora ti chiamo, chimera. Lettera di Dino Campana a Sibilla Aleramo del 9 aprile 1917. Mia cara amica, sono troppo stanco e troppo ammalato per cercare di comprendere. Prendo il partito dei più deboli, il mio solito partito. Parto. Regalo a chi ne ha bisogno quel poco di poesia che può essere sorta in te dal nostro amore. Non posso dirti altro dopo questo. Mia cara, sono realmente ammalato, non ho potuto sopportare l'attesa e le tue lettere. Ricevo ora il telegramma. Parto domattina per la casetta. Là c'è il silenzio. Io ti amo tanto e rimpiango la poesia solo perché essa saprebbe baciare il tuo corpo di psiche e il tuo viso roseo e nero con la bocca sfiorita di faunessa. Perdonami, se non voglio essere più poeta, neppure per te. Sai che neppure le acque, neppure il silenzio sanno più dirmi nulla e senti la mia infinita desolazione. Ti porto come il mio ricordo di gloria e di gioia. Ricorda quando soffrirai colui che ti ama infinitamente e porta per te solo il suo colore, l'ultimo bacio dal tuo Dino che ti adora. Mi dia il polso. Cosa sente? Il mare. Io credo che noi potremmo anche leggere qualche sua vecchia poesia, non crede? Oggi no. Oggi non vivo. Signor Campana, lei deve aiutarmi. Non vorrà mica invecchiare qua dentro, vero? Io non invecchio mai. Con la suggestione posso vivere a volontà. 100, 200, 300 anni. La suggestione. Lei soffre qua dentro, lontano dai suoi affetti, lontano dai suoi studi. Niente affatto, signore, io sto benissimo qui. Mi diverto qui. Mi piace stare qui. Qui posso avere tutte le illusioni che voglio. Posso passeggiare per l'America. Posso anche prendere moglie. Scriva, scriva. Io ho sposato centinaia di donne per mezzo della suggestione. Suggestiono le principesse a prendermi per marito. È come l'opera, la suggestione. Qual tormento che mi prende al mattino, io vado camminando e torturato dal sole, dal mare. Finito, non ricevo più. Devo arguire che tutta la sua opera è frutto di suggestione? Che non è il riflesso della sua vita di prima, delle sue esperienze, dei suoi viaggi. Quanto tempo rimase in Argentina? Partì nel 7, mi pare, no? 5, 6, 7 anni, una vita. E che cosa faceva laggiù? Vuol sapere cosa facevo in Argentina? Indovini. Quando avevo bisogno di soldi, suonavo anche. Nei bordelli. I conti non tornano, nell'otto lei era di nuovo in Italia. E chi se ne frega dei suoi conti? Se in Argentina lei ci fosse rimasto 8-9 mesi al massimo? Oppure se non ci fosse neanche mai andato? E se tutto quello che ha scritto non fosse che il frutto di una prodigiosa fantasia? Ma voi ve ne fregate dei suoi conti, vero? Tu li tieni i tuoi conti? Eh? Tu li tieni i conti? E tu? Quanti anni è che sei qua dentro? Diglielo a quello sbirro, diglielo! Campana, si calmi! Te lo ricordi, hai voluto dimenticarci! Dai, invece quel poveretto, Campana, si calmi! Stia attento a questo libro! Quel che cerca c'è e non c'è! Stia buono, Campana! Venga qui! Venga qui! Venga qui, le ho detto! Sono levati di mezzo! Campana, la smetta! Lei adesso viene con me, le farò vedere che qui non è come andare in America e tornare! Lasciatelo! Bene, siamo arrivati quasi alla fine di questo pilota di Areboom. Avete ascoltato, oltre alle letture annunciate da lui medesimo del grande Carmelo Bene, da un suo famoso spettacolo di lettura, soprattutto svolta nei canti orfici, per l'appunto, dei frammenti letti invece da me, tra cui la lettera a Sibilla Lerano, e avete sentito un frammento invece tratto da una finzione che riproduceva una parte della relazione tormentata tra Dino e Sibilla nell'interpretazione data da Luigi Faccini nel film Inganni, dove Dino era Bruno Zanin e Sibilla Aleramo, o Rina Faccio, come si chiamava in realtà, Olga Carlatus. Il secondo spezzone che avete sentito è sempre tratto dal film Inganni, ma parla del momento in cui Dino è stato rinchiuso in manicomio e dopo alcuni anni di grande sofferenza sta forse un po' meglio, anche se non è completamente guarito, come avete capito, e viene visitato in carcere, scusatelo, in manicomio, ma la differenza è veramente poca, visto che siamo negli anni 20, dallo psicanalista e psichiatra Carlo Pariani, che poi ne trarrà un libro in cui trascrive le sue conversazioni con Dino, che sono quindi fedeli alla realtà, se che dobbiamo credere e non ne abbiamo motivo, al buon Carlo Pariani. Quindi io vi saluto, non so quando mi state ascoltando e non so nemmeno più di quando mi ascolterete per la prossima volta qui su questa emittente, e vi lascio con un ultimo pezzo. Sono un gruppo degli anni 80 della Wave italiana, sono i Viridanze con Benvenuto Cellino. Alla prossima. Yeah. À rebours.